ad alta voce. Anna Maria Guarnieri legge Cime tempestose di Emily Bronte, traduzione di Margherita Giacobino. Il giorno dopo, un po' più tardi del solito, vidi alla luce del sole che filtrava attraverso le imposte la signorina Catherine ancora seduta accanto al camino. La porta della sala, inoltre, era semiaperta e la luce entrava dalle finestre che non erano state chiuse. Hindley era venuto fuori e si trovava presso il focolare della cucina, insonnolito e stralunato. «Che cos'hai, Cathy?» stava dicendo quando entrai. «Sembri un cucciolo annegato. Perché sei così pallida e tutta bagnata, bambina?» «Ho preso l'acqua», disse lei reticente. «E ho freddo. Ecco tutto». «Oh, che ragazza impossibile!» esclamai, vedendo che il padrone era abbastanza sobrio. «Si è bagnata fino all'osso con l'acquazzone di ieri sera ed è stata seduta qui per tutta la notte. Non sono riuscita a smuoverla». Hindley ci fissò sorpreso. «Per tutta la notte?» ripeté. «Che cosa l'ha tenuta sveglia? Non certo la paura del tuono. Ha smesso molte ore fa». Nessuna di noi due voleva parlare dell'assenza di Heathcliff finché si poteva nasconderla. Così replicai che non sapevo come mai le fosse saltato in mente di stare sveglia, e lei non disse nulla. «È malata», disse Hindley prendendole il polso. «Credo che sia per questo che non ha voluto andare a letto. Dannazione, non voglio altre malattie qua dentro. Che cosa ti è venuto in mente di stare sotto la pioggia?» «Correva dietro ai ragazzi come al solito», gracchiò Joseph, approfittando della nostra esitazione per farsi avanti con la sua linguaccia. «Se fossi in voi, padrone, sbatterei la porta in faccia a tutti quanti, nobili e plebei. Quando voi siete fuori, non passa giorno che quella gatta morta di Linton non si infili qui e la signorina Nelly, quella brava ragazza, se ne sta seduta in cucina a fare la posta per voi e quando voi entrate da una porta, quello esce dall'altra. E dopo la nostra gran signora se ne va ad amoreggiare per conto suo. Bel contegno. Andare a nascondersi nei campi dopo mezzanotte con quel demonio infame di uno zingaro, Heathcliff. Loro pensano che io sia cieco, ma non lo sono per niente. Ho visto il giovane Linton venire e andarsene e ho visto te», e qui si rivolse a me, «te, buona niente fannullona di una strega. Tu sei saltata su e sei filata in casa appena hai sentito il cavallo del padrone scalpitare in strada». «Zitto, spione!» gridò Catherine. «Tieni lontana da me la tua insolenza. Edgar Linton è passato ieri per caso, Hindley, e sono stata io a dirgli di andarsene, perché sapevo che non ti sarebbe piaciuto incontrarlo nello stato in cui eri». «Stai mentendo, Cathy, non c'è dubbio», rispose suo fratello, «e tu sei uno stupido dannato. Ma lasciamo perdere Linton per adesso. Dimmi, sei stata con Heathcliff ieri sera? Su, dimmi la verità. Non devi avere paura di danneggiarlo. Io lo odio, come sempre. Ma recentemente mi ha fatto un favore e la mia coscienza mi rimprovererebbe se gli rompessi il collo». «Heathcliff non l'ho visto per niente ieri notte», rispose Catherine, cominciando a singhiozzare amaramente. «E se tu lo mandi via di casa, io me ne andrò con lui. Ma forse non ne avrai mai la possibilità. Forse se n'è già andato». E qui scoppiò in un pianto incontrollabile e le parole che seguirono furono inarticolate. Hindley la coprì di un torrente di ingiurie sprezzanti e le ordinò di andare immediatamente in camera sua o avrebbe avuto una ragione vera per piangere. Io la costrinsi a obbedire e non dimenticherò mai la scena che fece quando raggiungemmo la sua camera. Ne fui terrorizzata, pensai che stesse diventando pazza e supplicai Joseph di correre a chiamare il dottore. Risultò che era il principio del delirio. Il dottor Kenneth, non appena la vide, diagnosticò una forma molto grave di febbre. Le fece un salasso e mi disse di darle solo siero di latte e farinata leggera e di stare attenta che non si gettasse giù dalle scale o dalla finestra. Benché io non possa affermare di essere stata un'infermiera tenera e benché Joseph e il padrone non fossero certo meglio, e benché la nostra paziente fosse estenuante e testarda più che mai, superò la crisi. La vecchia signora Linton ci fece visita più volte, come c'era da aspettarsi. Venne a mettere le cose a posto, a sgridarci e a dare ordine a destra e a manca. E quando Catherine fu convalescente, insistette per portarla alla Grange, una liberazione per cui le fummo molto grati. Ma la povera signora dovette pentirsi della sua gentilezza. Lei e suo marito si presero entrambi la febbre e morirono a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro. La nostra signorina tornò da noi ancora più impertinente, più impulsiva e più superba che mai. Di Heathcliff non si erano più avute notizie da quella sera del temporale e un giorno, in cui lei mi aveva esasperata, ebbi la sventura di darle la colpa della sua scomparsa, il che in fondo era vero e lei lo sapeva bene. Da quel momento e per mesi non mi rivolse più la parola, tranne che per darmi ordini da padrona a domestica. Anche Joseph venne messo al bando. Lui non rinunciava a dire quello che pensava e a fare la predica in ogni caso, come se fosse una ragazzina. Lei invece si riteneva una donna adulta, oltre a essere la nostra padrona, e pensava che la sua recente malattia le conferisse il diritto di essere trattata con deferenza. Inoltre, il dottore aveva detto che era bene non contraddirla troppo. Doveva poter fare a modo suo, e se qualcuno aveva l'ardire di contrariarla, per lei la cosa era poco meno di un assassinio. Da Hindley e dai suoi compagni si teneva lontana, e ammonito da Kenneth e dalle serie minacce di crisi che spesso seguivano le collere di lei, suo fratello le concedeva tutto quello che le saltava in mente di chiedere, e in genere evitava di irritare il suo temperamento focoso. Era un po' troppo indulgente nel soddisfare i suoi capricci. Non lo faceva per affetto, ma per orgoglio. Desiderava seriamente che portasse onore alla famiglia sposando un Linton e purché lasciasse in pace lui, poteva calpestare noi come schiavi per quel che gli importava. Edgar Linton, come infiniti altri prima di lui e dopo di lui, era infatuato e il giorno che la condusse alla cappella di Gimmerton, 3 anni dopo la morte del padre, credette di essere l'uomo più felice del mondo. Benché con estrema riluttanza mi lasciai convincere a lasciare Cime Tempestose e ad accompagnarla qua giù. Il piccolo Ayrton aveva quasi 5 anni e avevo appena incominciato a insegnargli a leggere e scrivere. Ci separammo con tristezza, ma le lacrime di Catherine ebbero più potere delle nostre. Quando mi rifiutai di andare e lei scoprì che le sue preghiere non mi commuovevano, andò a lamentarsi con suo marito e suo fratello. Il primo mi offrì uno stipendio generoso, il secondo mi ordinò di fare i bagagli. Non voleva donne in casa, disse, ora che non c'era più una padrona. E per quanto riguardava Ayrton, tra poco se ne sarebbe occupato il curato. Così non mi restava nessuna alternativa. Dovetti fare quello che mi veniva ordinato. Dissi al padrone che si stava liberando di tutte le persone decenti al solo scopo di andare in rovina un po' più in fretta. Baciai Ayrton e gli dissi addio. Da allora è diventato un estraneo per me. È così strano pensarlo. Eppure non ho dubbio che abbia dimenticato tutto di Ellen Dean e anche di essere stato la cosa più cara al mondo per lei e lei per lui. A questo punto la signora Dean non volle saperne di fermarsi un secondo di più e a dire la verità io stesso mi sentivo disposto a rimandare il seguito della storia. Thank you. Questo è un momento in cui sto abbastanza bene. Sono troppo debole per leggere, ma sento che apprezzerei qualcosa di interessante. Perché non far salire la signora Dean a finire il suo racconto? Suonai e la signora Dean arrivò. «Mancano 20 minuti, signore, all'ora della medicina», cominciò. «Lasci perdere», risposi. «Quello che desidero, il dottore dice che dobbiamo sospendere le polveri. Non mi interrompa. Venga a sedersi qui. Metta giù le mani da quell'angoscioso schieramento di fiale. Tiri fuori la voramaglia dalla tasca, ecco, così. E ora continui la storia del signor Heathcliff, da dove l'ha lasciata fino a oggi. Va bene, ma se permette, continuerò a modo mio. Me ne andai con la signorina Catherine alla Grange e con mia gradita sorpresa lei si comportò infinitamente meglio di quanto avessi osato sperare. Sembrava volere fin troppo bene al signor Linton e si mostrò molto affettuosa anche con la sorella di lui. Certo, tutti e due si prendevano una gran cura del suo benessere. Non fu il rovo a piegarsi ai caprifogli, ma i caprifogli ad abbracciare il rovo. Non c'erano reciproche concessioni. Una mantenne le sue posizioni e gli altri cedettero. E chi può essere malvagio o irascibile quando non si incontra né opposizione né indifferenza? Credo di poter affermare che ci fosse tra loro una felicità profonda e crescente. Ma finì. Beh, si deve pur pensare a noi stessi a lungo andare. Ed è più giusto che siano egoisti i miti e i generosi che non i prepotenti. Finì quando le circostanze portarono tutti e due ad accorgersi che il bene dell'uno non era la principale preoccupazione dell'altro. Una bella sera di settembre stavo tornando dal giardino con un pesante cesto di mele che avevo raccolto. Si faceva buio e la luna era apparsa sopra l'alto muro del cortile, proiettando vaghe ombre, quando sentii una voce dietro di me. «Sei tu, Nelly?» Era una voce profonda, con un accento straniero, ma c'era qualcosa nel modo in cui aveva pronunciato il mio nome che la faceva suonare familiare. Spaventata mi voltai per scoprire chi avesse parlato. «È da un'ora che aspetto qui», riprese, «e per tutto questo tempo qui intorno c'è stato un silenzio di morte. Non osavo entrare. Non mi riconosci? Guardami, non sono uno sconosciuto». Un raggio di luce cadde sul suo volto. Le guance erano giallastre e per metà coperte da basette nere, le sopracciglia folte, gli occhi incavati e strani. Riconobbi gli occhi. «Come? Sei tornato? Sei davvero tu? Davvero?» «Sì, Heathcliff», rispose, spostando lo sguardo da me alle finestre in alto, che riflettevano una quantità di lune scintillanti, ma nessuna luce dall'interno. «Sono in casa? Dov'è lei?» «Nelly, ma tu non sei contenta? Non c'è bisogno di essere così preoccupata. Lei è qui? Parla. Voglio parlare con lei, con la tua padrona. Vai a dirle che c'è qualcuno da Gimmerton che desidera vederla. Vai a riferire il mio messaggio. Non sopporto di aspettare ancora». Sollevò il catenaccio e io entrai. Ma quando arrivai al salotto dove si trovavano i signori Linton, non riuscii più ad andare avanti. Alla fine decisi e aprì la porta. Sia la stanza che i suoi occupanti avevano in sé una pace straordinaria. Ero riluttante all'idea di fare la mia ambasciata. Stavo quasi per andarmene davvero senza parlare, quando mi resi conto che mi stavo comportando in modo assurdo. Mi sforzai a tornare indietro e mormorai: «C'è una persona da Gimmerton che vuole vederla, signora». «Che cosa vuole?» chiese la signora Linton. «Non gliel'ho chiesto», risposi. «Bene, chiudi le tende, Nelly», disse, «e porta su il tè. Io torno subito». Uscì dalla stanza e il signor Edgar mi chiese distrattamente chi fosse. «Qualcuno che la padrona non si aspetta», risposi. «Heathcliff, se lo ricorda, signore? Quello che viveva nella casa del signor Hindley». «Cosa? Lo zingaro? Il bracciante?» gridò. «Perché non l'hai detto a Catherine?» «No, non lo chiami con questi nomi, padrone», dissi. «A lei dispiacerebbe troppo. Era disperata quando se n'è andato. Credo che il suo ritorno sarà una festa per lei. Il signor Linton si diresse verso una finestra dall'altro lato della stanza che guardava sul cortile. L'aprì e si affacciò. Probabilmente loro erano lì sotto, perché lui immediatamente esclamò: «Non stare lì, amore! Fai entrare quella persona, se è qualcuno che ti interessa!» Poco dopo sentì il rumore del chiavistello e Catherine si precipitò di sopra, senza fiato e tutta agitata. Non sembrava neppure felice, tanto era eccitata. Anzi, per la verità, a vederla, si sarebbe detto che fosse successa una disgrazia spaventosa. «Oh, Edgar, Edgar!» ansimò, gettandogli le braccia al collo. «Oh, Edgar, caro! Heathcliff è tornato! È tornato!» E lo abbracciò così forte da soffocarlo. «Bene, bene!» gridò suo marito bruscamente. «Non è il caso di strangolarmi per questo. Non mi è mai sembrato un tesoro così meraviglioso. Non c'è bisogno che tu perda la testa. Lo so che non ti è mai piaciuto», rispose lei, contenendo un po' l'intensità della sua emozione. «Eppure, per amor mio, adesso dovete essere amici. Gli dico di salire?» «Qui?» disse lui. «In salotto?» «E dove, se no?» domandò lei. Lui sembrò contrariato e suggerì che la cucina sarebbe stato un luogo più adatto per riceverlo. La signora Linton lo guardò con una strana espressione, mezza arrabbiata e mezza divertita per la sua schizzinosità. «No», aggiunse dopo un po', «non posso ricevere in cucina. Prepara due tavoli qui, Ellen, uno per il tuo padrone e la signorina Isabella, che sono di alto rango, e l'altro per Heathcliff e per me, che siamo di ceto inferiore. Ti va bene così, caro? O devo far accendere un fuoco in un'altra stanza? Se è così, da ordine che sia fatto. Io scendo ad accertarmi che il mio ospite non scappi. Ho paura che sia una gioia troppo grande per essere vera». Ero più che mai sbalordita nell'osservare la trasformazione di Heathcliff, ora pienamente visibile alla luce del fuoco e delle candele. Era diventato un uomo alto, atletico, con una bella corporatura. Al suo fianco il mio padrone sembrava un adolescente gracile. Quel portamento eretto faceva pensare che fosse stato nell'esercito. Il suo viso, dall'espressione e dai lineamenti marcati, appariva molto più maturo di quello del signor Linton ed esprimeva intelligenza. Non c'era più traccia dell'abbrutimento di un tempo. Una ferocia non del tutto civilizzata si nascondeva ancora in quelle sopracciglia arcuate e in quegli occhi pieni di fuoco oscuro, ma era dominata e le sue maniere avevano una loro dignità, troppo rigide per essere aggraziate, ma ripulite dall'antica rozzezza. Il mio padrone era sorpreso quanto me, se non di più. Preso alla sprovvista, per un minuto non seppe come rivolgersi al bracciante, come l'aveva definito. Heathcliff lasciò cadere la sua mano scarna e rimase a guardarlo freddamente, finché lui non si decise a parlare. «Si sieda, signore», disse infine. «La signora Linton, in memoria dei vecchi tempi, ha voluto che le offrissi una cordiale accoglienza e, naturalmente, io sono ben contento quando accade qualcosa che fa piacere a lei». «E anch'io», rispose Heathcliff, «specialmente se è qualcosa che dipende da me. Mi fermerò volentieri un'ora o due». Si mise a sedere di fronte a Catherine, che tenne gli occhi fissi su di lui, quasi temesse di vederlo svanire se li avesse distolti. Lui non alzò spesso i suoi verso di lei. Una rapida occhiata di tanto in tanto gli bastava, ma il suo sguardo si faceva ogni volta più sicuro, illuminato dall'immenso e non dissimulato piacere che leggeva negli occhi di lei. Erano troppo assorti nella loro reciproca gioia per provare imbarazzo, ma non era così per il signor Edgar, che si fece pallido per l'irritazione, sensazione che raggiunse il culmine quando la signora si alzò e attraversando il tappeto prese nuovamente le mani di Heathcliff e rise come se fosse fuori di sé. «Domani mi sembrerà un sogno», esclamò. «Non riuscirò a credere che ti ho visto e toccato e parlato di nuovo. Ma Heathcliff, crudele, non ti meriti questo benvenuto. Te ne sei stato lontano per 3 anni, senza una parola, senza mai pensare a me». «Un po' più di quanto tu hai pensato a me», mormorò lui. «Non è molto che ho saputo del tuo matrimonio, Cathy. E mentre aspettavo di sotto in cortile, ho meditato questo piano. Vederti ancora una volta, cogliere sul tuo volto uno sguardo di sorpresa e forse di finto piacere, poi regolare i conti con Hindley e quindi precedere la legge facendomi giustizia da solo. Il tuo benvenuto ha scacciato queste idee dalla mia mente, ma stai attenta a non accogliermi diversamente quando mi incontri la prossima volta. No, non mi manderai via di nuovo. Eri preoccupata per me, vero? Beh, ce n'era motivo. Ho dovuto combattere le mie battaglie e la vita è stata dura dall'ultima volta che ho sentito la tua voce. E tu devi perdonarmi, perché è solo per te che ho lottato. Catherine, se non vogliamo prendere il tè freddo, ti prego di venire a sederti a tavola», gli interruppe Linton, sforzandosi di mantenere il suo solito tono e la giusta misura di cortesia. «Il signor Heathcliff avrà un lungo tratto di strada da fare, ovunque alloggi stanotte, e io ho sete». La merenda non durò neppure 10 minuti. La tazza di Catherine non venne mai riempita. Non riuscì né a mangiare né a bere. Edgar rovesciò il tè nel piattino e ingoiò a fatica una sorsata. Quella sera il loro ospite non si trattenne più di un'ora. Quando se ne andò, gli chiesi se andava a Gimmerton. «No, a Cime Tempestose», rispose. «Il signor Hindley mi ha invitato quando gli ho fatto visita stamattina».